Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sostenibilità ambientale, regione, comuni e università tracciano le linee guida. Ridurre il consumo di suolo, aumentare il verde nelle città e le quote di agricoltura biologica. Il primo impianto per la produzione di idrogeno green sorgerà a Trieste, vicino al termovalorizzatore, nella zona del canale navigabile. Sarà in funzione tra 2 anni. La flotta di Trieste Trasporti avviata sulla strada dell'elettrico. 13 mezzi in servizio da domani, con l'obiettivo di arrivare a quota 137 bus elettrici nei prossimi 6 anni. Colloqui di selezione per 600 studenti e laureandi dell'Università di Trieste, una 60ina di imprese italiane ed estere, diversi enti del territorio cercano personale altamente qualificato. Libri scolastici per le scuole medie e superiori sempre più cari. La spesa che grava sulle famiglie è diversa a seconda di quanti libri ogni singolo istituto decide di dare, incomodato d'uso, ma si può rivolgersi al garante. La nostra inchiesta. Nel sito paleontologico di Duino, nuove scoperte grazie a tecniche innovative di analisi dei fossili e al coinvolgimento di elettrasincrotrone. 80 milioni di anni fa qui volavano gli pterodattili e la costa, infestata dai progenitori dei coccodrilli, assomigliava ad una foresta tropicale. Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Terranova e Francesca Vigori. I cambiamenti climatici dettano le nuove linee guida regionali per l'urbanistica. Dunque, si punta entro fine legislatura a rendere sempre più verdi le aree urbane, azzerare le emissioni di CO2 e contenere il consumo di suolo. Tra le stelle polari da seguire nel nuovo piano di governo del territorio del Friuli Venezia Giulia, ridurre il consumo di suolo, pianificare e progettare tenendo conto del clima, aumentare il verde nelle città e la quota di agricoltura biologica. Sono linee guida che emergono da un incontro a Udine tra regione, comuni ed enti del territorio, ma anche con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e l'Università di Trieste, Udine e La Sapienza, gli attori che accompagnano la Direzione Infrastrutture e Territorio in un percorso condiviso. Obiettivo entro fine legislatura definire le nuove guida che stabiliscano dove e cosa si può costruire, dove e cosa va protetto su tutto il territorio regionale, superando il cruciale ma ormai datato piano urbanistico regionale generale del 1978. I comuni, per esempio, saranno chiamati a indicare quali sono gli strumenti necessari a una pianificazione territoriale più snella possibile. A livello di indirizzo, indica l'assessore regionale Amirante, dovremmo puntare all'azzeramento delle emissioni tenendo le città e i paesi al centro dell'azione politica, tenendo quindi l'uomo al centro. Troppo alto il consumo di suolo in regione, ha sottolineato dati alla mano l'ex ministro per l'ambiente Edo Ronchi. L'8% del territorio consumato in regione contro una media nazionale del 7.1%. Nelle aree a pericolosità idraulica, in particolare, nel 2022 sono stati consumati in Friuli Venezia Giulia 10.9 ettari di suolo, mentre è lì che bisogna accelerare l'azzeramento. Non solo, troppo poco diffusa l'agricoltura biologica, occupa solo il 9% della superficie agricola utilizzata a fronte di un 18.7% nazionale. Obiettivo arrivare al 25% al 2030. Proprio a quella data guardano le strategie nazionali a cui dovrebbero conformarsi anche quelle regionali. Tra i cardini, arrestare la perdita di ecosistemi verdi urbani e favorire il reinverdimento urbano, aumentare in modo consistente l'alberatura in città e la forestazione delle aree periurbane ed esplicitare la priorità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente invece che consumare nuovo suolo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. L'idrogeno è l'unico carburante che, comunque lo si usi, in motori termici o in celle a combustibile, non produce emissioni inquinanti, ma semplicemente acqua. Poi può essere utilizzato per produrre altri composti. In particolare è impiegato nell'industria chimica per produrre ammoniaca, metanolo, concimi per l'agricoltura e prodotti petroliferi e nell'industria metallurgica per il trattamento dei metalli. Il primo stabilimento per la produzione di idrogeno verde della Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico sorgerà fra 2 anni a Trieste, vicino al termovalorizzatore e a un grande parco fotovoltaico che lo farà funzionare. Ieri a Fiume in Croazia il meeting fra gli attori del progetto internazionale. La valle dell'idrogeno del nord Adriatico sarà verde entro il 2027. Il progetto di transizione ecologica con l'idrogeno come vettore ha raccolto all'Università di Fiumi i rappresentanti istituzionali di Croazia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia, insieme ai partner che daranno vita ai 17 progetti che permetteranno, grazie ai 25 milioni investiti, uno scambio transfrontaliero del 20% dell'idrogeno prodotto, ovvero più di 5.000 tonnellate all'anno. Un'iniziativa che non riguarda soltanto gli aspetti energetici e industriali, ma anche quelli che toccano direttamente il miglioramento sociale, una mobilità innovativa e la formazione di figure professionali molto richieste dal mercato. E quanto ha spiegato l'assessore regionale Alessia Rosolene, presente all'incontro con i 37 partner che compongono il consorzio. Il percorso che il progetto sta portando avanti vede soprattutto la necessità di costruire una visione comune e mettere le basi per la costituzione di un organismo che sulla progettazione, sull'individuazione di ulteriori risorse e di ulteriori sviluppo del progetto possa concentrarsi. Uno dei progetti sarà la realizzazione da parte di Acegas APS AMGA di un impianto di elettrolisi con una produzione di 370 tonnellate di idrogeno all'anno. L'impianto ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie. Sarà a fianco al termovalorizzatore di Trieste, anche il parco fotovoltaico sarà nelle vicinanze e sarà appunto una bella simbiosi industriale tra due impianti del gruppo. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani entreranno in servizio i primi 13 bus elettrici di Trieste Trasporti. Hanno un'autonomia di 500 km, non fanno rumore, non producono alcun inquinamento quanto viaggiano. Questa mattina la presentazione. Si comincia con 13 nuovi mezzi, con l'obiettivo di arrivare a quota 137 entro il 2030. La flotta di Trieste Trasporti passa con gradualità all'elettrico, con la presentazione dei primi autobus che saranno in servizio fin da subito. L'investimento per questo primo lotto è stato di oltre 8.200.000 euro, di cui oltre 6 provenienti dai fondi del PNRR. Il passaggio all'elettrico consentirà di abbattere quasi 800 tonnellate di anidride carbonica all'anno e nel 2030 saranno più di 8.000. I nuovi autobus di produzione cinese sono lunghi 12 metri e possono portare poco più di 80 persone con 33 sedute, 8 in più rispetto agli autobus a gasolio. Hanno una livrea nuova e una batteria che ha un'autonomia di 500 km e sarà ricaricata nel deposito di Broletto. A bordo ci saranno tecnologie per monitorarne le performance, i consumi e gli stili di guida in modo da massimizzarne l'efficienza. I mezzi saranno impiegati per le linee 8, 17 e 18 e i conducenti che sono già stati formati per guidarli sono più di 400. Come spiega Maurizio Marzi Wildauer, presidente di Trieste Trasporti e TPL Friuli Venezia Giulia, l'entrata in servizio di questi primi 13 bus elettrici segna l'inizio di una trasformazione profonda e impegnativa. La transizione è un processo trasversale che riguarda le tecnologie, l'ambiente, la manutenzione, il modo stesso di viaggiare. Si mitiga il rumore, si abbattono le emissioni inquinanti, si migliora realmente la qualità della vita in città. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un'altra bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale è stata rinvenuta durante i lavori alla stazione ferroviaria di Nova Gorica. Si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese di 104 kg con miccia meccanica. Ne ha dato notizia il sindaco della cittadina, Samo Turel, che ha specificato come il residuato bellico sia in buone condizioni. Può dunque essere interrato e il brillamento rimandato, anche perché gli artificieri ritengono che nell'area se ne troveranno altri. La proposta è quella di proseguire le ricerche di altre bombe per circa un mese e di disporre la neutralizzazione degli esplosivi e la conseguente evacuazione della zona domenica 20 ottobre. Imprese italiane d'estere che cercano personale qualificato e studenti universitari che cercano lavoro. I colloqui di selezione sono in corso oggi all'Università di Trieste tra una sessantina di aziende e 600 candidati. Un colloquio dietro un altro all'Università degli Studi di Trieste, dove è in corso il Career Day, 14ª edizione, la più ricca, quella del centenario. 57 aziende presenti, 600 studenti iscritti, neolaureati o giovani in procinto di laurearsi. Una prima esperienza all'estero sicuramente, per poi rientrare stabili in Italia e magari pensare alla famiglia. Queste le ambizioni più ricorrenti che abbiamo sentito dire dai ragazzi. Le aziende invece lamentano una difficoltà a trovare lavoratori perché c'è più offerta che domanda. Ospite al Career Day, Fabiana Andreani, esperta di orientamento, che dalla pandemia in poi si è spostata sui social, dove posta video con consigli pratici per chi cerca lavoro. E allora, il primo consiglio, quale? Allora, arrivare preparati, ovviamente conoscere le aziende, conoscere anche cosa stanno cercando, ma magari arrivare anche curiosi, perché le aziende qui non sono per fare dei colloqui di selezione vera e propria, ma quanto per far conoscere le aziende, quindi a fare delle domande rispetto al proprio profilo di carriera, rispetto al proprio curriculum, e perché no, anche chiedere quali sono le possibilità di carriera, quindi non avere quella paura di dire oddio non so nulla, non ho mai lavorato, cosa penseranno di me, ma approfittare del momento appunto per prendere degli indizi utili per il proprio profilo e futuro professionale. Si dice che i ragazzi siano un po' svogliati, attaccati a casa, poco volenterosi, è così? Ma io quello che vedo, i ragazzi non vogliono essere sfruttati, sicuramente hanno capito che hanno un maggiore impegno, non viene di conseguenza sempre un equo guadagno, quindi sono attenti al trattamento economico, al trattamento anche della possibilità di crescita. Sono dei ragazzi, io li vedo un po' disillusi, ma questo direi anche un po' dovere delle aziende, dei media, della società, dare loro la possibilità di esprimersi e di avere anche delle condizioni migliori per affrontare questo passaggio, questo inizio della vita lavorativa. Forse pensare anche alla qualità della vita non è un male rispetto alle precedenti generazioni. Io apprezzo molto questo, finalmente abbiamo una generazione che ha messo in equilibrio vita e lavoro, volendo appunto anche una vita dove tanti aspetti possono convivere tra di loro senza che il lavoro sia l'unica fonte di soddisfazione o l'unica fonte di affermazione personale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si celebra oggi la giornata europea dell'agricoltura biologica, una realtà che anche in Friuli Venezia Giulia ha sempre più spazio e quote di mercato, come ci spiega Cristina Micheloni, presidente regionale dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, AIAB. Negli ultimi anni ha preso una curva positiva rispetto a tanti anni di stagnazione, per cui siamo arrivati a circa 1000 operatori certificati, che vuol dire agricoltori, allevatori, trasformatori, rivenditori, perché nel biologico tutta la filiera deve essere certificata. Per quanto riguarda la superficie siamo arrivati al 9,6% della SAU, ovvero della superficie agricola utilizzata. Chiaramente se facciamo un paragone rispetto a regioni come la Toscana o anche alla Sicilia siamo ben indietro, questi vanno oltre il 20%, ma anche rispetto all'Austria, l'Austria ha superato il 26% da qualche anno, però insomma sta crescendo, nonostante gli ultimi anni una crisi economica generale che insomma sta pesando su tutti, nonostante le grandi incertezze del clima e un contesto, chiamiamolo culturale, politico, che non è proprio di quelli più favorevoli. In Friuli Venezia Giulia qual è la cosa biologica che si coltiva di più? Vino sì, mele abbastanza, seminativi, poi ci sono abbastanza prati pascoli per la zootecnia, quindi latte. Quali sono invece le tendenze per il breve e il medio termine? Che cosa riserverà il futuro del settore del biologico? Guarda, questa è una bella domanda, anche perché adesso bisogna aspettare che la nuova Commissione Europea si insedi. Buona parte dell'agricoltura, o meglio tutta l'agricoltura, dipende per molti aspetti da quelle che sono le decisioni europee. Da quanto leggiamo, gli impegni ambientali verranno mantenuti, c'è la solita promessa di semplificare, di sburocratizzare, io mi permetto di essere sempre dubbiosa. Noi siamo l'unico paese tra quelli dell'Unione Europea che ha fissato dei limiti ulteriori ai residui accidentalmente presenti nei prodotti biologici e un regime sanzionatorio veramente folle. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Come si effettua una corretta raccolta differenziata dei rifiuti? Lo spiegano due comici, succede nella destra Tagliamento con i Papu. Sensibilizzare la popolazione ad una corretta esposizione temporale dei rifiuti secondo i calendari prestabiliti ed anche ad una precisa gestione del Tetra Pak. L'AGEA, società che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Pordenonese, vuole ricordare agli utenti attraverso una simpatica campagna di comunicazione dei Papu, il duo comico di Andrea Appi e Ramiro Besa, come un sacchetto dei rifiuti in strada nel giorno sbagliato possa far diventare la città un Far West. E sull'importanza del conferimento dei cartoni per le bevande tipo Tetra Pak nella raccolta della carta, in continuità con la campagna avviata in collaborazione con Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. Prodotti due video, uno da 40 secondi e uno della durata più lunga, basati sulle brillanti gag tra Linda e Fernanda, personaggi interpretati dai Papu, che verranno diffusi attraverso i canali social e sul sito di AGEA. Confidiamo nell'aiuto dei cittadini e degli utenti, ha rimarcato il presidente di AGEA Gianfranco Marino. Molto dipende dal loro aiuto. Ricordiamo come il regolamento preveda che i rifiuti della raccolta del porta a porta integrale possano essere esposti davanti alle abitazioni dalle 17 del giorno precedente del prelievo da parte degli operatori di IGEA. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12.45 circa diamo uno sguardo al tempo, il cielo è nuvoloso sui monti, sereno su pianura e costa. Le temperature a Trieste 19 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 21 gradi, a Udine 21, a Pordenone Gorizia 20, a Tolmezzo 19 gradi, a Tarvisio 14, a Piancavallo 13 gradi, a Forni di Sopra 14, a Sappada 12, sul Monte Lussari 9 gradi, sul Monte Zoncolan 8 gradi, a Grado 20, così come a Lignano, e il mare in questa località è di 21 gradi. Le previsioni in giornata: da nuvoloso a coperto con maggiori schiarite verso ovest dal pomeriggio, saranno possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone orientali. La polizia di Udine ha arrestato per truffa pluriaggravata a danno di un anziano udinese, un 19enne residente fuori regione. Gli agenti hanno seguito due giovani che si muovevano in modo sospetto in città quando uno dei due è entrato in una palazzina di via del Pioppo e ne è uscito pochi minuti dopo liberandosi del giubbotto che indossava dietro un'auto in sosta. I poliziotti lo hanno fermato. Con sé aveva 1.100 euro. Le indagini hanno consentito di individuare la persona che era stata truffata dal 19enne, un anziano di 89 anni, precedentemente contattato al telefono di rete fissa da un sedicente maresciallo e convinto a consegnare a chi gli si fosse poi presentato a casa tutti i soldi che aveva per poter liberare la moglie, resosi responsabile di un grave incidente che stava per essere condotta in carcere. Tutto falso, naturalmente. Gli agenti sono riusciti a intercettare anche l'altro ragazzo, un minorenne, che aveva con sé 500 euro e molti monili in oro. I poliziotti udinesi sono riusciti anche in questo caso a individuare la vittima della truffa, una donna udinese di 87 anni, residente in via Molin Nuovo, che sempre convinta con lo stesso stratagemma al telefono aveva dato al giovane proprio 500 euro e tutti i suoi gioielli. Successivamente le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di attribuire allo stesso minore anche un'altra truffa perpetrata, in questo caso a danno di un'84enne triestina, nella giornata del 18 settembre scorso. L'anziana aveva consegnato ai due diversi chili di gioielli trovati poi nella camera d'albergo di Udine dove i due ragazzi alloggiavano. Questa domenica Trieste ospita la 7ª Corsa del Ricordo, un'iniziativa sportiva nazionale che farà tappa nei prossimi mesi in numerose città. Organizza il Comitato Trieste Corre, Comitato Regionale dell'Alleanza Sportiva Italiana, la Lega Nazionale e l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ne parliamo proprio con il suo presidente Renzo Codarin. La corsa si svolge domenica 29, parte e arriva sul sito della Folga di Basilica. È una corsa del ricordo di quello che sono state le vicende del confine orientale in queste terre, quindi per ricordare anche ai giovani, anche a chi fa sport, ma anche proprio attraverso lo sport, una corsa che vuole aprirsi anche a tutte le popolazioni di queste zone che tramite lo sport possono capire anche le sofferenze che hanno subito gli altri, quindi italiani, sloveni, croati, tutti quelli che vivono in queste zone, possono tramite lo sport e la corsa del ricordo approfondire una materia che ormai è di studio didattico. Infatti c'è anche una sezione che riguarda proprio le scuole e lo sport, per insegnare tramite lo sport queste vicende perché non abbiano più a verificarsi. Inaugura al Teatro Rossetti una nuova sala nell'ambito del progetto 1954 Trieste, l'Italia, il teatro stabile, per celebrare il ritorno di Trieste all'Italia. La sala 1954 ospiterà un nuovo spettacolo del cantante e attore Simone Cristicchi, già autore del monologo Magazzino 18 sull'esodo fiumano dalmata. Ci dice di più il direttore artistico Paolo Valerio. Per noi è una giornata molto importante perché il Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia inaugura un nuovo spazio, una nuova sala, Sala 1954. Questo è all'interno di un progetto, Trieste, l'Italia, il Teatro Stabile, per ricordare i 70 anni della nascita del Teatro Stabile e del ricongiungimento di Trieste all'Italia. Naturalmente, accanto a questo importante momento, quindi l'apertura di una nuova sala, che per noi è una sorta di monumento da questo punto di vista, altre iniziative altrettanto importanti, uno spettacolo di Simone Cristicchi, che si intitola appunto Trieste 1954, ed è una naturale continuazione del suo piccolo capolavoro Magazzino 18, che tra l'altro debutterà a Sacile in anteprima tra 2 giorni e poi il 1 di ottobre al Piccolo Teatro di Milano. E accanto un progetto straordinario dal mio punto di vista, che è il 26 ottobre Un mare di ombrelli, un testo di Gianni Gori, una collaborazione tra Rai, Friuli Venezia Giulia, quindi un testo che nascerà in radio per poi essere portato sul palcoscenico il nostro teatro in Sala Bartoli. Quindi un progetto del teatro che diventa prima attraverso la radio, poi attraverso un palcoscenico, un luogo straordinario per ricordare. Da 34 anni il Teatro La Contrada di Trieste porta le famiglie a teatro la domenica mattina e non solo, con tanti spettacoli per bambini. Oggi viene presentata la nuova stagione, ne parliamo con la responsabile del Teatro dell'Infanzia e della Gioventù, Enza De Rose. Sono 60 appuntamenti, quindi sono tantissimi. Io sono onoratissima perché da 12 anni ormai che lavoro per questo settore, che per me è veramente importante visto che sarà il nostro pubblico di domani. Abbiamo preparato molte favole, molte fiabe, tanta musica. Infatti io vorrei puntare l'attenzione soprattutto su un testo di una musicista che si chiama Alice Porro, che ha riscritto il flauto magico per bambini intitolandolo Il Crauto Magico, con l'orchestra dei fiati di Trieste, Giuseppe Verdi. Ma poi abbiamo anche i nostri classici come Biancaneve, Non aprite quella porta. Abbiamo anche molta danza. È da 4-5 anni che ho voluto porre l'attenzione anche sulla danza, danza contemporanea per bambini. E quindi abbiamo compagnie che ospitiamo dalla Toscana, dal Piemonte, come Gridanza, Fondazione Gridanza, che è una compagnia storica molto importante italiana che fa anche spettacoli per bambini. E poi iniziamo sempre la nostra stagione col Dolcetto e Scherzetto il 31 ottobre a cura della nostra Daniela Gattorno, che poi curerà anche le fiabe e lo zucchero filato, che sono il sabato. Le domeniche mattine si trovano gli spettacoli nella rassegna del Ti racconto una fiaba, sia al Bobbio che ai Fabbri, quindi bisogna stare un attimo attenti dove per leggere bene il posto. Cara scuola, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato per quest'anno un rincaro medio del 18% rispetto al 2023 sui libri di testo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, l'11 settembre ha avviato un'indagine sull'editoria scolastica. Si indagano anche le rigidità dell'adozione scolastica dei testi, anche considerando le innovazioni tecnologiche del settore, soprattutto per quanto riguarda la combinazione dei formati cartaceo digitale. L'autorità è aperta a ricevere lamentele e contributi pertinenti da tutti i soggetti interessati. Basta mandare una mail entro il 12 ottobre a ic57@agcm.it. Ma intanto, quanto pesa sul budget familiare mandare alla scuola dell'obbligo i figli? Dovrebbe essere gratuito, almeno così recita l'articolo 34 della Costituzione. E se in parte è vero per le elementari, dove si spende molto per la cancelleria ma i libri non si pagano, alle medie e alle superiori sì. Il tetto di spesa fissato per legge è uguale per tutte le scuole, ma gli studenti finiscono col pagare cifre diverse. A fare la differenza è soprattutto la quantità di libri che ogni istituto mette in comodato d'uso, cioè quanti libri si possono comprare ad un prezzo calmierato. A fine anno si possono restituire senza sottolineature e ricevere il rimborso della spesa, oppure i libri si possono tenere. Le differenze superano anche i 100 euro a studente da scuola a scuola. Il comodato d'uso gratuito poi non c'è dalla terza superiore in poi. Negli ultimi anni i paleontologi hanno lavorato sempre di più con gli esperti delle scansioni tomografiche, strumento che permette di vedere nei minimi dettagli l'interno delle ossa fossilizzate senza danneggiarle. Grazie alla collaborazione con Elettra Sincrotrone Trieste è stato possibile vedere i fossili del villaggio del pescatore come se la roccia che li ha preservati fosse trasparente. Ecco dunque che possiamo saperne molto di più su come si presentava il territorio 80 milioni di anni fa. Un incontro pubblico sulle le nuove scoperte al Villaggio del Pescatore, è in programma questo pomeriggio a Trieste, all'Urban Center di Corso Cavour alle 17.30. Ma intanto abbiamo chiesto a Marco Mussoni dell'Università di Bologna com'era questo territorio 80 milioni di anni fa. Parlando di flora, ancora sappiamo poco, perché ci sono studi in corso e sebbene il materiale esista non è ancora stato studiato a dovere, quindi lavoro in corso. Però da quel che sappiamo doveva essere una macchia o foresta subtropicale o tropicale costiera, con alberi simili a quelli che troviamo oggi nella regione dell'Australia del Nord, Nuova Caledonia. Molto interessante. Quindi sarebbe stata una sorta di giungla semiarida tropicale. Mentre a livello di fauna quello che abbiamo per adesso sono ovviamente dinosauri, coccodrilli strani, perché ci sono sia coccodrilli semiacquatici adattati a mangiare cose molto diverse da quelli moderni, ma anche terrestri, cioè che si muovevano sulla terraferma. Oltre a questo abbiamo anche insetti, ci sono resti di gamberi, ci sono resti di pesci e abbiamo anche un osso di pterosauro, cioè gli pterodattili, insomma i rettili volanti tipici dell'era dei dinosauri. Quindi ci immaginiamo un territorio molto vivo. Sì, assolutamente sì, molto più ricco di quel che si pensasse, tra l'altro. Il nostro giornale radio si chiude qui da Francesca Terranova e Francesca Vigori, che lo hanno redatto e condotto, Paolo Cassano, che ha garantito la parte tecnica. Grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.